Ciao a tutte e tutti, io volevo un po' aggiornare la situazione sul personale ATA in merito ora all'emergenza sanitaria del Covid-19. Allora, tanto chi sono gli ATA, perché a volte molti se lo dimenticano, l'ATA è tutto il resto del personale che lavora nella scuola, a parte i docenti, gli educatori, i dirigenti, i direttori. Ma sono tutti coloro, e sono parecchi, che svolgono come assistenti amministrativi il lavoro di segreteria, come assistenti tecnici, danno supporto nei vari laboratori di fisica, di informatica, di chimica, e poi ci sono i collaboratori scolastici ubbidelli, poi ci sono i cuochi, ci sono i guardarobieri, ci sono i modelli viventi, ci sono gli infermieri che sono poi figure principalmente che lavorano nei convitti, perché ecco tra le varie scuole che noi abbiamo, ecco ci sono varie tipologie di scuole, insomma, istruzione di primo grado, primaria e secondaria primo grado, gli istituti superiori, ci sono i convitti per sordomuti, ci sono i convitti nazionali dove c'è una forma appunto di semiresidenza o residenza totale, ci sono poi le scuole carcerarie e ci sono i CPA, cioè che fanno anche corsi per adulti, per stranieri e di alfabetizzazione e ci sono le scuole in ospedale. Quindi io cercherò di dare una visione di quelle che sono le mie informazioni, perché anche noi personale ATA, io sono un'amministrativa, siamo in modalità agile, dice sì. Dopodiché, come voi ben sapete, la scuola è ben parcellizzata, quindi ogni scuola fa capo a sé. Poi tutto ciò in vista anche di quelle regioni che hanno proposto l'autonomia differenziata, ora vediamo il disastro della sanità pubblica a cosa ha portato anche con queste differenziazioni regionali, possiamo ben immaginare quale possa essere anche la ricaduta sulla scuola che già soffre ampiamente. Allora, come voi sapete, Sero, la scuola è chiusa, o meglio, la scuola è interrotta per ciò che riguarda le attività didattiche, poi sulla formazione a distanza dirò qualcosa in fondo, ma i docenti ne hanno ben parlato anche in questa trasmissione molto meglio di me. Comunque, quindi, che vuol dire interruzione attività didattica? Ossia, quando c'è qualsiasi forma di cataclisma, pioggia, neve, vento, terremoti, adesso il Covid-19, quello che si interrompe sono le lezioni in presenza del personale scolastico, quindi docenti e alunni, ma tutto questo personale ATA continua a lavorare. In che modo? Allora, mentre appunto è stata prevista, non vi dico la confusione, i primi tempi, quindi si è molto sottovalutato anche da parte delle scuole, almeno di alcune che io conosco, questa emergenza, per cui ma no, andiamo a lavorare, facciamo i turni, non fa niente, ma poi vuoi che succeda? Non succede niente, no, poi non vi dico, io lavoro in un CPA, si chiedeva la mappatura di tutti i ragazzi cinesi che erano venuti in Italia nei primi 15 giorni, una sorta di schedatura che veniva chiesta alle scuole, a cui i presidi ovviamente e fortunatamente spero si siano rifiutati, anche perché era quasi impossibile, e poi appunto nei CPA lavorano molti stranieri, stiamo parlando di alfabetizzazione o insegnamento dell'italiano come lingua 2 a ragazzi spesso che abitano anche in delle case famiglia, quindi io non so come sia potuta avvenire l'applicazione della didattica a distanza, visto che è anche impossibile, io la ritengo veramente nulla, a distanza fare un corso di alfabetizzazione a un ragazzo bengalese che utilizza anche una grafica, una scrittura, se alfabetizzato, anche completamente diversa dalla nostra. Comunque, ritornando a come si è proceduto per il personale ATA nelle varie scuole, qui ognuno ha fatto da sé. Allora, che è successo? Molte scuole, a quanto so, continuano imperterrite a fare orario di segreteria aprendo al pubblico almeno 2 volte a settimana, costringendo quindi sia gli amministrativi, sia i tecnici che i bidelli a presenziare. Cosa fanno? Non saprei, perché dopo una volta che è stata fatta la disinfestazione con tutti questi materiali, che poi appunto anche lì andiamo a vedere i budget, le spese sostenute dalle scuole, quanto sia stato realmente poi reso, ma mi risulta che siano in corso di erogazione ancora i fondi per i computer da dare ai ragazzi più bisognosi, ai studenti più bisognosi. Comunque, appunto, fatta la specie per i bidelli l'opera di disinfestazione, non si capisce che cosa facciano. Ora, per il personale amministrativo è richiesta la presenza da alcune scuole per i famosi casi indifferibili. Quali sono i casi indifferibili? Beh, per esempio, una è la ricostruzione di carriera, ci sarà molto personale in pensione. E quindi bisogna, servono tante di quelle carte che lasciamo stare, quindi bisogna consultare il fascicolo poi delle persone per andare a ricercare tutti i documenti necessari per procedere e poter garantire il pensionamento delle persone che ne fanno richiesta, perché queste pratiche vanno avanti, non è che è tutto bloccato, giustamente anche perché chi ha diritto alla pensione ci deve andare. Poi ci sono appunto questa famosa distribuzione di computer che va data ai studenti, non so i criteri adottati, quali siano stati, come e perché, anche perché viene richiesto alle scuole anche di fare un lavoro sovrumano sui conteggi, quanto posso anticipare, c'è una circolare del MIUR che dice di anticipare, fatevi un po' i conti voi scuole, quanto budget riuscite ad anticipare per eventuali emergenze, che siano acquisto del computer, proroga supplenze brevi e quant'altro. Comunque, scusate un po' la confusione, insomma, cerco di dire le cose più in fretta possibile. Però ci sono scuole in cui diciamo, il personale sta a casa, poi verranno richieste ferie a tal proposito, ferie annuali precedenti, recuperi ora, aspettative e quant'altro per coprire, non lo so, anche su queste le informazioni sono molto frammentarie e confuse. Ad alcuni appunto viene richiesta addirittura una prestazione di lavoro agile a casa, agli amministrativi, conteggiabile, cioè uno ha una tabella di marcia, deve fare servizio da quell'ora a quell'ora, ci sono dirigenti che chiamano continuamente i propri amministrativi per fargli fare questo o quello, e quindi, però ci sono altre scuole in cui è necessaria la presenza 2 volte a settimana, come dicevo, oppure su appuntamento. La ripresa delle scuole, ora lascerò ai redattori e a tutte le altre persone discutere su quello che prevede il ministro Azzolina per il rientro. Ma minimo 20 alunni per classe, massimo 20 alunni, rotazione dei turni del personale, non si capisce mai niente qui. Poche idee ben confuse. Dopodiché, allora, un'altra cosa da rilevare è questo mancato aggiornamento delle graduatorie d'istituto e delle supplenze ATA, perché non si capisce, mentre i docenti verranno garantiti nelle supplenze brevi, per il personale ATA anche qui ci sono indicazioni ben confuse. Intanto sussidi, cioè il portale dove si effettuano ormai la maggior parte delle operazioni di mobilità, di trasferimenti, di pensionamenti, di aggiornamenti di graduatorie, di chiamata e convocazione dei supplenti, il sistema non prevede l'aggiornamento, non si sa, è stato differito con tante scuse della Solina, ci dispiace, non possiamo aggiornare le graduatorie, neanche in modo telematico, cosa che secondo me è fattibile invece lavorando io in segreteria, almeno le domande telematiche si possono anche da casa valutare, altrimenti ci ritroveremo ancora una volta a inizio d'anno con tante supplenze, tante alla faccia della messa in ruolo di docenti e quant'altro, perché comunque non si consente l'aggiornamento, non ci sarà nessun cambiamento. E dopodiché attendiamo lumi dagli illuminati, che quanto sembra illuminati non sono. Ora, un'altra cosa appunto di questi decreti per la scuola sono i fondi che verranno stanziati anche per l'acquisto di apparecchiature, strumenti, connessione. Ora, Dunque, i tagli poi al personale ADA sono stati massicci, insomma, i numeri sono stati dati più e più volte anche da questa radio e quindi la disparità tra le scuole poi è molto, molto ampia, cioè i comprensivi sono quanto a personale che poi pure modalità agile possa svolgere varie incombenze è ridotto all'osso, i supplenti anche qui non sono formati, spesso ci sono state pochissime assunzioni anche quest'anno da prima fascia, non da terza, quindi le scuole hanno dovuto attingere a gruppi di terza fascia dove il personale è anche meno formato, meno esperto, meno capace, giustamente insomma, no? E quindi con tutti questi tagli, ora anche le superiori stanno un po' meglio anche a livello di contributi, di progetti che attuano, insomma, ma io mi preoccupo soprattutto per gli istituti comprensivi che hanno veramente ridotto all'osso anche tutto il personale e come faranno ad affrontare tutto ciò, anche in previsione di questa fase 2 che non si capisce bene, a parte gli auguri che ci manda Vazzolina, ce la faremo, andrà tutto bene, ma qui io vorrei ribadire che le strategie adottate sono poche, scarse, ben confuse e sulla formazione a distanza anch'io ho molte, molte, tantissime perplessità perché ne raggiungi 5 forse, ma ne lasci fuori altri 5. Ricordiamoci la dispersione scolastica che nelle scuole è altissima, altissima. Ricordiamoci tutti i bambini immigrati, le famiglie immigrate, le persone in difficoltà che non hanno neanche una connessione. Poi, vogliamo parlare delle nostre sito, del MIUR e delle connessioni, non funzionano in tempi normali, figuriamoci adesso. Comunque un abbraccio a tutte e tutti e vabbè, alla prossima, ciao.